Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Da 1 a 10, quanto raccomanderesti a un tuo amico questo negozio? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Questa domanda è al centro di un nuovo indice per misurare il valore economico del passaparola, quello tradizionale, vecchio quanto il commercio. Ne parleremo nel primo dei nostri approfondimenti. Pasta, biscotti, pane, latte e un prestito. Grazie al supermercato arrivano i servizi finanziari. Ne parleremo nello spazio dedicato alla grande distribuzione. Focus sui trend dedicato infine ai consumi infraordinari, quando la quotidianità fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Dalle coulisse di un cabaret parigino ai piedi delle star di tutto il mondo, come Madonna, Nicole Kidman, Angelina Jolie, ma anche la première dame di Francia, Carla Bruni. Le scarpe dalle suole rosse di Christian Louboutin festeggiano 20 anni. Al calzaturiere francese che firma le scarpe delle ballerine del Crazy Horse, rende omaggio anche il Design Museum di Londra. È già sell out negli Stati Uniti la discussa Barbie tatuata. Firmata da Toki Doki, alias Simone Legno, sarà disponibile in Europa a novembre. Qualche mese fa la Mattel era già finita nel mirino di alcune associazioni di genitori per la Barbie con il piercing, tanto che l'azienda dovette rinunciare alla sua produzione. L'Italia batte la Francia nel derby del formaggio. Nel 2011 i consumi di formaggi italiani oltralpe hanno superato quelli di formaggi francesi nel bel paese. Lo rileva Coldiretti, sottolineando la storica inversione di tendenza. Russia, sempre più appassionata della moda made in Italy, non solo quella delle grandi griffe, ha aperto a Mosca il concept store Novaya Italia, con le creazioni degli stilisti più promettenti della penisola. Dopo aver galoppato per 15 anni, segna il passo il mercato delle crociere. Secondo Federviaggio, quest'anno le maggiori compagnie hanno registrato una crescita limitata o addirittura una decrescita. Per uscirne, gli operatori puntano su crociere più brevi, a prezzi più bassi. La borsa della spesa. La donna è armata! Scappiamo, si castiga! Passa parola! Ha detto, facciamo una risata e distruggiamo la diga, la schiumarola. Skipper! Alex vuole distruggere la diga! Kowalski, a tutto gas! Tiralo su, ci ammazzeranno! Ci deve essere un altro modo, passa parola! Dicono non tirarlo su, ammazzaci, non c'è altro modo, la schiumarola! Sei sicuro? Già, questione delicata, il passaparola se prende la piega sbagliata può combinare disastri, soprattutto quando si parla di brand e prodotti. I consumatori, rivelano le indagini di mercato, scelgono, basandosi su consigli degli amici, in una percentuale che va dal 60 al 90%. Ecco perché le aziende sono sempre più attente al monitoraggio del passaparola, non solo quello online, che in gergo si chiama buzz, chiacchiericcio, ma anche quello tradizionale. La società di consulenza Bain & Co., tra i leader mondiali di settore, 47 uffici in 30 paesi nel mondo, ha messo a punto un nuovo indice. Si chiama indice NPS per misurare il valore economico del passaparola. Per capire quanto incida il ruolo che gli stessi clienti hanno nel promuovere un determinato brand facendogli pubblicità tra amici, parenti e conoscenti. Ne abbiamo parlato con Andrea Petronio di Bain. Il passaparola è una semplice metrica però molto efficace, perché di fatto è quella che consente di vedere chi è veramente contento, quindi è felice di essere cliente o di comprare un prodotto. Quello che è emerso è che c'è una fortissima correlazione tra questo indice che noi chiamiamo NPS, Net Promoter Score, e la performance aziendale. Si chiede, ma tu raccomanderesti che misura raccomanderesti un prodotto, un negozio, un insegno, un servizio? Cioè quanto sei contento? E facciamo una domanda semplice che è questa, la risposta va in scala da 0 a 10, se uno prende 9 e 10 viene definito un promotore, cioè colui che poi raccomanda e quindi genera il passaparola positivo, se uno invece risponde sotto il 6 è un detrattore. Si parla tanto di clienti, ma poi spesso nelle metriche aziendali si guardano i conti economici, si guardano altri indici, non c'è mai qualcosa estimi e ci misuri questo fenomeno. E siccome è correlato anche al risultato economico, questo è il vero indicatore di una crescita sana e profittevole. A medio termine, secondo me, l'offline, l'online confluiranno in un unico fenomeno. Tu hai un consumatore che può arrivare a comprare il tuo prodotto attraverso tanti canali, è tutto integrato e non puoi che non tenerne conto e misurare la sua soddisfazione, o meglio la sua fedeltà, perché questo è un indice di fedeltà, è fondamentale. L'indagine ad hoc svolta nella grande distribuzione ha rivelato ad esempio che a guidare i consigli dei consumatori non c'è solo il prezzo, ma anche l'assortimento, uno dei motivi per cui si sceglie un supermercato anziché un altro. Le cose fondamentali dipendono un pochino dalla tipologia anche di canale. Se guarda i promotori nel canale discount, il prezzo rimane oggi ancora la variabile più importante, però l'assortimento, se vogliamo, quindi quello che uno propone, è comunque, dipendentemente che parliamo di un ipermercato, un supermercato, un discount, l'elemento centrale o scatenante poi la soddisfazione e la fedeltà. E al supermercato, voltiamo pagina ma non troppo, può anche succedere che si incontri l'anima gemella, oppure si scopra di aspettare un figlio, si creino occasioni di confronto con realtà diverse. Lo testimoniano i racconti inviati per il concorso Un racconto nel carrello, concorso organizzato da SMA in occasione del suo 50° anniversario. Ne è nato un volume in vendita dal 1 novembre nei supermercati Simpli. Il ricavato, al netto dei costi di produzione, sarà devoluto a Teleton. Carlo Delmenico, direttore responsabilità sociale di impresa di SMA. Molte storie sono storie d'amore o comunque sono storie di incontri, a volte sono storie in cui il punto di vendita diventa il luogo dove, per esempio, attraverso un ciuccio o un piccolo biberon posto sul tappeto della cassa, la futura mamma riesce a comunicare al futuro padre che sono in attesa, per esempio. O invece sono racconti che parlano più che altro magari di esperienze di madre fatte con i figli, come la spesa possa essere interpretata in maniera divertente. Altri temi invece sono invece un po' più legati all'incontro anche di generazioni diverse. Oggi il supermercato è uno spazio veramente di incontro sociale. Si moltiplica intanto l'offerta dei servizi che si possono trovare al supermercato. Dopo l'estetista, l'idraulico, il medico, l'avvocato, l'agente di viaggio, lo psicologo, adesso, come già in Inghilterra e Francia, arriva il consulente finanziario. Codice a barre di Luigi Rubinelli. Anche le insegne della grande distribuzione italiana hanno deciso di proporre strumenti finanziari. Carrefour inizia con 24 sportelli bancari aperti nei suoi ipermercati, che diventeranno 30 entro la fine del 2012. Al momento offre prestiti personali, finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni all'interno dei punti di vendita della catena, oltre alla possibilità di sottoscrivere carte di credito spendibili nel circuito Mastercard. L'obiettivo finale è quello di arrivare entro 3 anni a fornire tutti i servizi propri di un istituto di credito, dal conto corrente alle carte prepagate al conto deposito. Carrefour ci tiene a sottolineare che il rischio dell'operazione se l'assume l'azienda e non un intermediario terzo. Il prestito personale viene erogato ad un tasso competitivo. Coop ha da tempo un servizio per i soci. Il deposito è remunerato con un tasso che va dallo 0,80 al 2% lordo a seconda della somma versata. La carta di debito collegata è utilizzabile per pagare nel circuito Coop e il socio può prelevare le somme versate direttamente nei negozi. Non sono previsti prestiti. Propone tramite Syngest prodotti assicurativi, mutui e strumenti di gestione del risparmio. Anche Selunga ha lanciato i suoi servizi finanziari grazie a un accordo con ProFamily, società della Popolare di Milano, specializzata nel credito al consumo riservato ai sottoscrittori di ProBonus. Chi accede a un prestito pro bonus, dopo 12 rate rimborsate puntualmente, avrà diritto a una carta prepagata Esselunga, pari al valore della rata mensile, per effettuare le proprie spese in tutti i punti della catena. Insomma, anche nei supermercati italiani fa capolino la finanza. Essere e avere. Dicono che è vero che ogni sognatore diventerà cinico invecchiando. Dicono che è vero che noi siamo fermi, il panorama che si sta muovendo. Dicono che è vero che per ogni slancio tornerà una mortificazione.